la mia forza, perché sei la mia lode. Quando vieni dentro me, quando vieni accanto a me, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. Presto a te, perché sei la mia pace, perché tu sei il mio canto. Quando vieni dentro me, quando vieni accanto a me, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. Alzo a te, perché sei la mia forza, perché sei la mia lode. Quando vieni dentro me, quando vieni accanto a me, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. La presto a te, perché sei la mia pace.